Capitolo 141. Auge. Aleo, re di Tegea, figlio di Afidante, sposò Neera, una figlia di Pereo, che egli generò Auge, Cefeo, Licurgo e Afidamante. Un tempio di Atena Alea, fondato a Tegea da Aleo, contiene ancora il sacro giaciglio della dea. Quando nel corso di una visita a Delfi Aleo fu avvertito dall'oracolo che i due fratelli di Neera sarebbero morti per mano del figlio di sua figlia, egli si precipitò a casa e nominò Auge sacerdotessa di Atena, minacciando di ucciderla se non si fosse mantenuta casta. Non si sa con certezza se Eracle giunse a Tegea mentre si preparava ad affrontare re Augia oppure al suo ritorno da Sparta. Comunque, Aleo lo accolse con cordialità ospitale nel tempio di Atena. Colà, riscaldato dal vino, Eracle violò la vergine sacerdotessa presso una fontana che ancora si mostra a settentrione del tempio. Ma dato che Auge non lanciò nemmeno un grido, molti suppongono che essa si recò laggiù di propria volontà. Eracle continuò per la sua strada e a Stinfalo generò Eurete in Partenope, la figlia di Stinfalo. Frattanto pestilenza e carestia si abbatterono su Tegea e Aleo, informato dalla pizia che un sacrilegio era stato commesso nel recinto del tempio di Atena, vi si recò e trovò Auge in stato di avanzata gravidanza. Benché essa piangendo gli assicurasse che Eracle l'aveva presa di forza e ubriaco, Aleo non volle crederle. La trascinò sulla piazza di Tegea ed essa cadde in ginocchio là dove oggi sorge il tempio di Ilizia, famoso per il suo dipinto di Auge in ginocchio. Non osando uccidere sua figlia in pubblico, Aleo incaricò re Nauplio di affogarla. Nauplio, seguendo le istruzioni ricevute, partì con Auge per Nauplia, ma sul monte Partenio Auge fu colta dalle doglie e ricorse a una scusa per appartarsi nel bosco. Colà diede alla luce un bimbo e, celatolo in un cespuglio, ritornò da Nauplio, che l'aveva pazientemente attesa ai margini della strada. Egli tuttavia non aveva l'intenzione di affogare una principessa che poteva vendere per altissimo prezzo al mercato degli schiavi. Cedette dunque Auge a certi mercanti cari che erano da poco giunti a Nauplia e che, a loro volta, la vendettero a Teutrante, re di Teutrania in Misia. Il figlio di Auge fu allattato da una cerva sul monte Partenio, dove ora è un recinto a lui sacro. Alcuni mandriani lo rinvennero, lo chiamarono Telefo e lo portarono al loro padrone re Corito. Nello stesso periodo, per curiosa coincidenza, i pastori di Corito scoprirono, esposto sulla medesima collina, il figlio neonato di Atalanta che essa aveva avuto da Meleagro. Lo chiamarono Partenopeo, che significa figlio di una vergine violata, perché Atalanta pretendeva d'essere ancora vergine. Quando Telefo raggiunse l'età virile, si recò dall'oracolo delfico per avere notizie dei suoi genitori. Gli fu detto: «Salpa e cerca di re Teutrante in Misia». In Misia, infatti, egli trovò Auge, ora sposata a Teutrante, e da lei seppe che essa era sua madre ed Eracle suo padre. Non gli fu difficile crederlo, poiché nessuna donna aveva mai generato a Eracle un figlio che gli somigliasse. Teutrante allora diede in sposa a Telefo sua figlia Argiope e lo dichiarò erede al trono. Altri dicono che Telefo, dopo aver ucciso Ippoto e Nereo, suoi zii materni, si recò in Misia alla ricerca di sua madre, rispettando un completo silenzio. Il silenzio di Telefo divenne proverbiale, ma Partenopeo lo accompagnava per parlare invece sua. Accadde che il famoso argonauta Ida, figlio di Afareo, stava per impadronirsi del trono di Misia e Teutrante, disperato, promise di abdicare in favore di Telefo e di dargli in sposa sua figlia adottiva se Ida fosse stato scacciato. Al che Telefo, con l'aiuto di Partenopeo, sconfisse Ida in duello. Ora la figlia adottiva di Teutrante era Auge, che non riconobbe Telefo, né egli sapeva che essa era sua madre. Fedele alla memoria di Eracle, Auge, la notte delle nozze, si portò una spada nella camera da letto e avrebbe ucciso Telefo al suo ingresso se gli dei non avessero fatto strisciare fra loro un grande serpente. Auge, sgomenta, gettò via la spada e confessò le sue intenzioni omicide. Innalzò poi una supplica a Eracle e Telefo cominciò a gridare ispirato: «Oh madre, oh madre!» Poi caddero piangendo l'uno nelle braccia dell'altra e il giorno seguente ritornarono alla loro città natale, accompagnati dalla benedizione di Eutrante. La tomba di Auge ancora si mostra a Pergamo presso il fiume Caico. Gli abitanti di Pergamo sostengono di essere i migranti arcadi che giunsero in Asia con Telefo e gli offrono sacrifici eroici. Altri dicono che Telefo sposò Astioca o Laodice, figlia del troiano Priamo. Altri ancora che Eracle si era giaciuto con Auge a Troia e vi si recò per farsi consegnare gli immortali cavalli di Laomedonte. Altri ancora che Aleo chiuse Auge e il suo infante in un cofano che affidò alle onde del mare. Tale cofano poi, sotto la solerte guida di Atena, raggiunse le coste dell'Asia Minore alle foci del fiume Caico, dove re Teutrante sposò Auge e adottò Telefo. Codesto Teutrante, mentre cacciava sul monte Teutrante, inseguì un giorno un gigantesco cinghiale che si rifugiò nel tempio di Artemide Ortosia. Teutrante era sul punto di forzare l'ingresso allorché il cinghiale gridò: «Risparmiami, o mio signore, io sono il beniamino della dea!» Teutrante non gli badò nemmeno e lo uccise, offendendo così Artemide in modo tale che essa ridonò la vita al cinghiale, punì Teutrante con il tormento della lebbra e lo costrinse a vagare tra valli solitarie. Sua madre Leucippe, tuttavia, si inoltrò in gran fretta nella foresta, portando con sé il veggente Poliido, e placò Artemide con cospicui sacrifici. Teutrante fu curato e guarito della lebbra con le pietre Antipate, che ancora si trovano in grande quantità sul monte Teutrante. Leucippe allora innalzò un altare ad Artemide Ortosia e fece costruire un cinghiale meccanico tutto d'oro con la testa d'uomo, che si rifugia nel tempio quando è inseguito e grida «Risparmiami!». Eracle, trovandosi in Arcadia, si recò sul monte Ostracina, dove sedusse Fialo, una figlia dell'eroe Alcimedonte. Quando Fialo partorì un figlio chiamato Ecmagora, Alcimedonte li scacciò ambedue e volle che morissero di fame sulla montagna. Ecmagora piangeva da spezzare il cuore e una misericordiosa gazza volò alla ricerca di Eracle, imitando i gemiti. Guidò così l'eroe fino all'albero dove Fialo sedeva legata e imbavagliata dal padre crudele. Eracle salvò la madre e il bambino, che crebbe uomo robusto. La fonte che sgorga in quel luogo è chiamata Cissa, il ricordo della gazza. Il giaciglio di Atena a Tegea e la violenza che si suppone Eracle abbia usata alla sua sacerdotessa Auge identificano codesta Atena con Neith o Anatha, un'orgiastica dea lunare le cui sacerdotesse si univano ogni anno col re sacro per assicurare un buon raccolto. Questa usanza sopravvisse in parte anche nel tempio di Ercole a Roma, dove la moglie del dio si chiamava Acca, una controfigura della dea bianca peloponnesiaca Acco, e a Gerusalemme, dove, prima delle riforme religiose dell'esilio, pare venisse celebrato un matrimonio sacro ogni anno, a settembre, tra il gran sacerdote che rappresentava Geova e la dea Anatha. Il professore Raffaele Patai elenca le prove raccolte circa queste nozze gerosolimitane nel suo libro Man and Temple. I figli divini che si supponevano nati da queste unioni diventavano gli spiriti del grano dell'anno successivo. Infatti Atena Alea era una dea del grano, patrona dei mulini. Il numero di figli che Eracle generò nelle ninfe convalida il prevalere di questa storia religiosa. A Eracle si attribuisce anche una figlia, Macaria, benedetta. Il mito di Auge doveva giustificare l'emigrazione degli Arcadi in Misia, emigrazione che avvenne in seguito a minacce achee. Anche le feste di Tegea in onore dell'anno nuovo, venerato sotto forma di dio cerbiatto a giudicare da un frammento esiodeo, avevano una festa corrispondente nella Troade. La leggenda che Auge e il suo bambino andarono alla deriva in un cofano fino al fiume Caico, la scena fu illustrata sull'altare di Pergamo e in monete della stessa città, significa semplicemente che il culto di Auge e di Telefo era stato importato nella Misia da coloni tegeati e che Auge, in qualità di dea luna, si supponeva salisse su una barca a forma di primo quarto in occasione delle celebrazioni dell'anno nuovo. Il fatto che Atena si trasformasse in seguito da sposa lasciva in casta vergine guerriera ha confuso un po' le idee dei mitografi. In alcune versioni Teutrante diventa il marito di Auge, in altre si limita piamente ad adottarla. La versione di Igino deriva da qualche tardo e artificioso dramma. Il mito del cinghiale d'oro si riferisce in parte alle proprietà terapeutiche delle pietre Antipate del monte Teutrante, in parte forse alla consuetudine misia di vendicare la morte di Adone, che era stato ucciso da Apollo sotto forma di cinghiale. Pare che l'uomo, il quale doveva personificare Adone indossando una pelle di cinghiale con zanne dorate, fosse risparmiato se riusciva a rifugiarsi nel santuario della sorella di Apollo, Artemide. I re di Tegea, città natale di Auge, erano, pare, uccisi di solito da cinghiali. L'avventura di Fialo e della Gazza è un aneddoto di fantasia inventato per giustificare il nome della sorgente che, probabilmente in origine, era sacra a un totem della Gazza.